Ecco qua, siamo tornati in AM, stavo regolando lo squelch che prima l'avevo un po' abbassato e sentivo altre modulazioni sotto. Kappa, no, va bene, in banda laterale, non mi aspettavo un baracchino, chiusura principale di questo. Evidentemente, questi, non so se è nuovo questo baracchino, ma presumo che i baracchini che funzionano di adesso, ultimamente, prima generazione, sicuramente sono migliori di quelli di 30-40 anni fa. Sì, no, questo è nuovo anche di uscita, è l'ultimo aggiornato, infatti c'ha la sigla Albrecht AE5890EU, puoi selezionare ovviamente le bande se vai in altri paesi, ovviamente rispettando le omologazioni degli altri paesi, capito? Ed esce con 4 watt in AM, 4 watt in FM e dovrebbe essere 13 in banda laterale. Sì, ho capito più o meno, non ce l'ho presente il baracchino, però più o meno diciamo il sistema usato mi sembra lo stesso, ecco, fanno baracchini da 26 a 30, poi c'è la possibilità in base a dove si trovi di spostarlo per i canali omologati del posto. Sì, esatto, ma con questo puoi fare anche altre modifiche, sono abbastanza semplici, sì, magari ci sono può funzionare qualcosa, oppure c'è qualche periodo, tutte le solite modifiche che poi sono, diciamo, costruiti in questo modo appositamente per essere, diciamo, modificati qua nel posto dove non si trova, per andare sempre a norma, le diverse regole. Sì, esatto, è proprio semplice qua, se proprio la vuoi fare, altrimenti lo lasci così, però questo viaggia bene così e quindi non lo tocco. No, allora, va bene, l'importante è questo, se non sei soddisfatto, sicuramente c'è sempre quell'opportunità più sentita, più potente, il tuo crescimento qua è sempre alle caratteristiche della poi non so se abbia anche la possibilità di elevarlo leggermente in uscita RF di base, diciamo. Sì, facendo quel lavoro lì e ovviamente c'è l'estensione della banda e anche l'aumento della potenza. Kappa, ormai sono più completi gli apparati, diciamo così, solo che chiaramente troppo SMD, troppa componentistica e miniatura, dunque per l'intervento, diciamo, caso di problema ci vorrebbero pochi buoni. Addirittura quello che uso in macchina è di quegli apparati micro che stanno nel palmo di una mano, è un President, adesso non mi ricordo, President Q eccetera, e quello ovviamente 40 canali AM, FM, lì ho lo stesso, l'ho aperto perché usciva con 3 watt praticamente, anche se c'era scritto 4 e avevo serie di difficoltà, capito? Quindi l'ho portato un pochettino su e lì ho dovuto ponticellare solo una cosa e adesso va un pochettino meglio. Ah, ma l'hai fatto tu, diciamo? Sì, esatto, con il saldatore quello 10 watt, perché sono tutte parti miniaturizzate, le schede elettroniche, e quindi se vai con saldatore classico rischi di bruciare tutto, capito? Invece con quello a bassa tensione riesci a fare bene anche le saldature, ci vuole un po' di mano precisa, ma non è molto difficile, ecco, comunque. Diciamo, io a volte ci provavo sugli SMD, solo che devo usare le lenti, quelle lenti un po' speciali per capire la componentistica, perché diciamo la certa età, diciamo, l'occhio perde un po', e dunque bisogna amplificare un po' per poter vedere meglio. Sì, io lo stesso uso la lente, se no non esci più, perché anche io sono un po' avanti con l'età e quindi da vicino devo usare gli occhiali, però per ingrandire quelle componenti lì devi usare per forza la lente, se no rischi di non veder bene e fare danno, capito? Certo, affitto, sì, anche io ho un po' di attrezzatura, io tengo tutto giù in garage, mentre la radio qua ce l'ho in cucina, l'ho sistemata lì perché vivo in un appartamento, quindi non ho una stanza, insomma, dove poter tenere tutto lì, eccetera, quindi quando devo fare cose del genere, scendo giù in garage, mi preparo tutto e poi devo risalire su e collegare, capito? K, dunque hai anche lobby dell'elettronica, dai, silenzi, diciamo, dai. Diciamo che così me la cavo da autodidatta, cerco sempre di documentarmi così e di fare tipo anche l'impianto elettrico di casa mia, quando sono venuto ad abitare qua me l'ho fatto tutto da me, tutto a norma, rispettando colore dei fili, e lo spessore degli stessi fili, so che il filo da 1,5 lo puoi mettere per gli abat-jour, mentre dove vanno elettrodomestici lo devi mettere da 2,5, insomma. Messa a terra tutto quanto, mi sono fatto tutto da me, e poi ho trovato anche un elettricista che me l'ha visionato e me l'ha omologato pure. Sì, ci vuole per forza ingegnere, capito? Quindi lui mi aveva fatto tutto, mi aveva scritto, eccetera. Tu fallo così com'è e non sbagli. Poi ti trovi qualcuno che te lo può rendere a norma, capito? E quindi avevo trovato un elettricista al quale avevo fatto fare un grande lavoro sul condominio, e quindi gli avevo chiesto la gentilezza se lui poteva, e visto il lavoro che gli avevo dato me l'ha omologato. Ovviamente l'ha voluto visionare, ha visto come era fatto, e quindi sono riuscito a avere anche quella certificazione. Io volevo dire, hai fatto una riparazione, le prese, tutte il termico solo per le prese, in modo che poi domani ci puoi usare la domanda. Sì, l'ho fatto praticamente con una sorta di quadro comandi, dove tu puoi disabilitare le prese oppure solo le lampadine, oppure gli elettrodomestici, per cui comprando diciamo le cose adeguate riesci anche a farlo così come dici tu. Guarda, io ho il vantaggio che qua di spesa di corrente elettrica è talmente irrisoria che, diciamo, per adesso sto viaggiando bene così, quello lo puoi fare se magari vuoi risparmiarci, quindi far partire, che ne so, un impianto di riscaldamento a un certo orario, lo puoi comandare a distanza, addirittura col cellulare, perché ci sono poi anche le applicazioni a seconda di quello che tu compri di schede, capito? C'è l'applicazione, quindi puoi comandare tutto a distanza. Ho visto che molte case moderne le stanno facendo già così, chi le realizza da capo preferisce usare questa nuova tecnologia che è eccezionale, per carità, ma io come consumo elettrico, ti ripeto, mensilmente sono 30-35 euro, non arrivo a 40 euro al mese di corrente elettrica. Addirittura, vabbè, c'è davvero un particolare. ottimizzare il consumo, magari il costo dell'energia elettrica nel paese. Sì, esatto, esatto. E io praticamente a casa ho tutte le lampadine, quelle LED che ti danno un grosso risparmio, e scaldabagno non ne ho più, e praticamente ho la caldaietta a gas per acqua calda e insomma l'acqua sanitaria, la cucina, che noi qua anche lì ad Alghero adesso ci abbiamo Medea e addirittura voi nel quartiere di della Pietraia mi sa che c'è anche il metano, lì stanno iniziando con quella gestione del metano. La Medea, qua abbiamo ancora il gas con aria diciamo propanata, euro a mese. Chiaramente poi bisogna vedere anche quanti inquilini hai, comunque vanno bene a gas, beh, da bagno sicuramente fanno un po' di più, l'energia elettrica da bagno comunque attaccano, invece che c'è un po' e poi vabbè si stacca a volte per il bagno. Sì, ho capito. Io abitando in condominio, un impianto autonomo con pannelli solari non lo posso fare, anche se dovremo adesso partire tra un poco i lavori con le detrazioni, quelle del 110%, se ci approvano tutto quanto dovremo mettere i pannelli solari sul tetto per avere corrente per la luce delle scale, oppure il vano ascensore, o che ne so, il vano autoclave alimenta quelle cose là. Se riusciamo a fare tutto entro il 2022-23 dovremmo usufruire di quelle detrazioni del 110%. Sì, esatto, esatto, so tutto perché una mia cugina gliel'hanno appena terminata, gli hanno fatto proprio il cappotto termico, gli hanno sostituito tutte le finestre, tutto l'esterno, anche il portoncino gliel'hanno messo blindato con le guarnizioni, quindi non c'è nessuna dispersione. Gli hanno fatto pure l'isolamento anche del tetto, perché non era impermeabilizzato il tetto, quindi hanno fatto l'impermeabilizzazione con uno strato da roba di 6 cm e dopo hanno messo le tegole, capito? E questo è rientrato tutto con quelle detrazioni là. Ho capito, beh certo, quindi bisogna approfittarne. Noi adesso abbiamo avviato tutto tramite amministratore e stiamo aspettando una risposta, perché abbiamo anche nominato un perito tecnico, non so se un ingegnere o un geometra abilitato, qualcosa del genere. Io non sono andato alle ultime riunioni, per cui non sono aggiornato su quello, e lui doveva venire per fare una perizia, poi doveva fare una relazione che andava inviata non so dove, e quindi avremmo dovuto aspettare la risposta. Adesso speriamo con l'anno nuovo che è appena iniziato ci facciano sapere qualcosa. E a proposito, buon anno, perché è appena iniziato. Eravamo presi dal buon ricordo, pensando a questa parte. Certo, ho sentito anche quello significativo per quanto riguarda questi lavori, ci sono abitazioni vecchie, no? Che fanno questi lavori qua, però se ci sono fermi gli altri all'interno, e quelli sono tutti a parte, sono quelli di costruzione, palazzo, oppure che per usufruire del bonus praticamente nel palazzo, condominio o casa privata che sia, non ci devono essere nemmeno abusi edilizi, tipo gente che chiude un terrazzino, che insomma trasforma da come all'origine l'appartamento oppure il palazzo, capito? Quindi a quel punto ti bloccano tutto. Dove abito io, per esempio, ci sono alcuni terrazzini interni, perché il mio palazzo è tipo a L, no? Costruito all'interno del cortile interno del condominio, qualcuno ha chiuso con l'alluminio, però è sempre pure una struttura che puoi levare, quindi con l'esecuzione dei lavori tutte queste cose vanno smontate, perché devi fare il cappotto termico, per cui in sede, diciamo, di esecuzione di lavori quelle cose vanno smontate, quindi il perito l'amministratore me l'aveva riferito, che il perito considera queste cose e che le persone dovranno togliere queste cose, queste chiusure, per esempio in alluminio dei terrazzini, e dopodiché è a rischio di ognuno di loro, nel caso dovessero rimetterli, lì scattano le multe, oppure devi stare 7-8 anni che non metti niente, nel senso il terrazzino te lo devi tenere aperto così come dovrebbe stare, capito? Se tu questa cosa la fai prima dei 7-8 anni, va incontro a multe anche salate, così mi è stato riferito. Dovrebbe essere così, perché chiaramente ci sono questi punti, ma non sono smontate, smontate. Poi se sarà sempre, se c'è una sanzione, perché sicuramente in base al periodo, perché sì, esatto. Lasciamo un attimo di bianco se c'è qualcuno che magari vuole entrare. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare sul 10, cambio. Non c'è nessuno, Carlo, che voglia entrare. E niente, comunque mi fa piacere che arrivo bene anche ad Alghero e insomma sono contento del controllo orario che mi hai dato, che sto uscendo bene, così l'ho sistemata, vuol dire anche bene l'antenna e non devo più salire sul tetto, almeno per un po' non ci salgo più. Allora, arrivi bene, guarda, il segnale tuo è molto simile a quello di Roberto, diciamo lo stesso segnale adeguato, 6-9, come regolazione di motore, vai a 5. Ok. Bene Mera, grazie della chiacchierata, Carlo, mio omonimo, e niente, magari ci sentiamo alle prossime. Se ti va di entrare qua sul 10 di sera, trovi sempre qualcuno, quasi sempre, stiamo sino all'ora di cena, a volte riprendiamo il dopo cena, e mi fa piacere se entri anche tu, così allarghiamo un po' la ruota. D'accordo Carlo, approfitto anch'io per salutarti, mi ha fatto piacere sentirti, mi auguro di vederti risultare sempre in ottime condizioni come ora. Ok, ciao ancora Carlo, buon anno. Ciao Carlo, anche a te, buon anno, buon tutto, alle prossimine, ci sentiamo prossimamente, allora grazie di tutto, ciao. proceduto. Sì, sta uscendo malissimo, occhio al microfono. Va bene adesso. Sì, adesso sì, Antonio, ma poco fa era un disastro, un'alternata allucinante. E il microfono, ogni tanto mi dà problemi. Ma poi un 60, L'MC60, Non me ne intendo, là. Ogni tanto lo fa. Fa da monello ogni tanto. Bisogna schirriarlo un po'. Bisogna farlo vedere, perché ogni tanto mi fa questo difetto qua. Ho qualche connessione, perché anche nello spinotto mi. Cacca e marasucci, ma. Qualche cazzata che una volta mai ti va a toccare uno con l'altro. E ti fa quell'alternata allucinante. No, è un difetto che c'ha questo tipo di microfono. Ogni tanto lo fa, ma deve essere il cappezzo, qualche maledizione. Sono da rivedere per tutte le connessioni, rifarle, tutte le saldature magari. Ce n'è qualcuna fredda, qualcuna mezzo staccata. Ah, lo faccio vedere a qualcuno, lo faccio vedere, perché io non intocco di chi c'è un microfono. Coscia, una bacca di lina, coscia. Meno di 100, penso che non lo trovi, 100-120, usato, Azza. No, detto di meno, non lo trovi. Non lo trovi, no. Cioè, sì, ma è mezzo, è così un poco. Insomma, là. Là, se manco i corretti che sta facendo una saldatura. Perché siete così bassi? Anche io? Io sono con 3,8. Segnale 3,4. E tu mi vuoi così? Ah, è abusando. Perché anche Antonio non è il suo segnale. No, Antonio non lo so. E chi sei tu? Chi sono io? Anche tu stai uscendo un pochettino bassino. Addirittura. Hai gitto un attimo, che cazzi. E poi vediamo. Ho capito. No, niente, dai. Non proseguo, buonasera. Io sto stavo facendo una saldatura, rimango d'ascolto anch'io. Anch'io sto facendo così. Sono entrato perché vi ho sentito, vi ho visto così piccoli, mi ha girato, ma cosa è successo? Pensavo che era il mio problema. Eravamo a riposo, dai. Dai. Vabbè, a dopo, ciao a tutti. Ciao, sei Franco di Sorso. Andiamo, dai. Guarda a vedere adesso, un bassino sono. Oggi stamattina mi arrivavi più alto, mi arrivavi quasi 9, adesso sei 7. Cappa, bisogna affrettare che cagli, è un po' caretto. Poi già va, Va bene, dai. A dopo tanto che sto saldando una cosa. Cappa, dai. A dopo, dai, ragazzi. Appena. Già ho riparato un raio. Hola. Hola. Ebbene Antone, già non mi sono dimenticato di te. Già ci vediamo, ok? Sì, io non ti preoccupare. Ci vediamo quando vuoi, non c'è problema, tanto voglio la casa, gli altri giorni ero in giro con Andrea Maricomio a farci un giro per i locali. Stai ricominciando a l'attore. Esci in giro? Sì, ciao Carlo, auguro neanche a te. Antonio, mio già va bene così il microfono e lascialo come adesso. Saluto Riccardo, e ben sentito. Quanto e auguri, buon anno, perché io ne ho fatto tanti, non mi ricordo a chi li ho fatti e a chi non li ho fatti, quindi buon anno a tutti, a chi ci ascolta pure. Grazie, grazie, grappa. Ma non arrivo di segnale da te? A fondo scala, Antone, 9 più 50, radio 5, così va bene. Andame, dai. Beh, Antone, da bravo hai fatto a Capodanno. A voglia, fatto da bravo, anche la nave, non so l'altro. Mi sono fatto i fuori e sono stato anche culone. Ho messo due caffè e ho trovato il cemento armato. E con la punta ho comprato la cosa, la sole avvocato come se fosse le ricotta. Ci sono entrato lento, senza indubbi, senza nulla, ho preso stretto, bene. Meno male non era forattino, almeno domani mi prendo il palo e piazzo la tela VHF, come si deve. Quella che hai la lasci lì, no? Dov'è? Quella che ho, prendo due altre tre graffe di quella e la sposto dalla parte del possesso dove c'è la parabola, me la metto pronto dove c'è il terrazzino, capito? Tanto lui c'è metà armato, speriamo che buchi bene. Gliene metto tre e il palo me lo piazzo lì, così mi viene molto meglio a lavorarci. Posso anche sollevarla, capito, come voglio io. Sono così come adesso, rischio, capito, di incasinarmi. Invece quando prendo molto le gaffe, mi piego appena appena il palo, poi la sto partendo stesso, uno si mette nella scaletta, stringe i dadi e le piazza tanta catamulo. Prendo quelle gaffe muro e sono più tranquillo. E io sto uscendo con l'antenna nuova e Antone. Prova un po'. 1, 2, 3, prova. 9 e 30, sì. E io già va bene, sto uscendo con pochi watt e quindi già va bene. Stasera ho parlato con Alghero, arrivavo 9 più 20. Qua sei, 9 e 46. Va benissimo, Anto. Diceva Antonello che stasera presto sarà stato 3:30, no? E ho parlato con uno che si chiama come me, Carlo, che mi ha detto che era da molto, che non modulava, e mi ha detto che gli arrivavo 9 più 20, radio 5, e abbiamo chiacchierato per una ventina di minuti, così gli ho detto se sta riprendendo la sera, se vuole entrare qua a fare chiamata sul 10, già arriva bene Alghero a Sassari. E a voglia, se Carlo quello che dico io dovrebbe seccare la parrega. E mi ha detto che lui da tanti anni che aveva tutto, capito, solo che non stava più entrando e adesso ha detto che dovrebbe riprendere. E lì c'erano 15 anni di CPA, no? Figurati. Quindi c'è, quando la parola fa, il tecnico fa come lavoro, faceva riparazioni di baracchini, modifiche, roba del genere. Io lo conosco anche di persona. Ti parlo di buoni 10 anni fa che non lo sentivo. Quindi già, se lui, già erano anche gli altri. E c'era altri 3-4 CP che entravano, di Langhero. Vabbè, a parte Cristian era molto, Cristian modulava da lì a casa sua, un altro Mondino, c'era Targhero, c'era solo CP lì, solo che evidentemente non entrava più nessuno, c'è che diventa dato la rematore, c'è che invece è rimasto CB. Le raide si riprendono anche loro, almeno fanno la ruota, loro parlavano di subito su 15. Ma lì c'è cotto. Ciao Natali, buona notte a te. Magari Natali. Ma uscendo con la mia maricone mi sono sbronzato, guarda, siamo bevuti un paio di birre. Tu sei bevuto lo sfumato, io ho bevuto la birra, e poi siamo andati dopo a casa, perché ci avevo cenare con la casa di Giovanna. Comunque già sta stare anche lui, adesso vuoi, perché se si ripiazza, fa un po', si ripiazza la stazione, l'FM500S in macchina, si piazza letto, e così vi parla anche lui a romperci le palle. E chi è Antonio? Andrea Maricomio. Ah, cappa. Ciao Natali, auguri, buon anno. Grazie altrettanto Carlo, a te famiglia. C'è anche Antonio, è in rotta. Avanti Antonio. Ehi, ciao Natali, e beh. Ehi, ripega là, sono impazzito tutto, non mi è toccato nulla, no. Cos'è? Certo, ciao Natali, buonasera. Ciao, ho risposto, non mi hai sentito. Gappa, gappa, vabbè, sto a posto. Ehi, tutto a posto, da buoni a posto. Gappa, gappa. Ehi, andava, dai. Uia, è 82 ore che ci dì, mamma mia. Eppure il terzo vaccino mi ha fatto male, mi ha fatto questa volta. È male che rivenga a tutti i enti. E avanti! Amici, come sto andando di radio? Sto provando l'MB più 5. Stamattina non stava funzionando. Come sto andando di radio? 440? Mi sembra bene. Qui c'è anche Natalino. Natalino, come ti sembra questa modulazione? Ehi, già è buona, Cla. 5. Ma non è che è cupa, no? Che vabbè, è la mia modulazione o è diversa? È diversa, Diversa come timbrica? Beh, non puoi pretendere da un MB5, no? Boh. Ah, per l'importante funzione, no? Gappa, gappa. Va bene, ci sentiamo dopo che... Guarda a vedere, no, perché l'MC50, che poi un MC60 si è bloccato, allora ho dovuto mettere questo. Va bene, aspetta che poi ti faccio un passaggio con l'altro, a vedere se va meglio. Sera Claudio. Ciao Carlo, buonasera. Piace anche Antonello, Avanti Antonello. Via, ciao Claudio, buona Natale, buona anche a te, anche se mi è passato, va bene uguale. Stai scendo bene comunque. Vabbè, provo l'MC50, cosa c'ha? Pur magari vi richiamo, sentiamo dopo, riprendi Anto. Cappa, la brospera l'hai pigliata, Cosa? La brospera l'hai pigliata. Per un periodo, adesso lo vogliamo andare in 5 per dare anche Ferrari, alla Sibiglia se l'ho potuto al gomma. L'altro giorno non funzionava il 60. L'ho smontato, pulito, sotto e adesso sta funzionando. Allora l'MC50, quello è un microfono eccezionale, mi ha fatto il circuito di preamplificazione Fabrizio, adesso vediamo se riesco a farlo funzionare. Riprendete voi, ci sentiamo dopo. Ehi AK, avanti Natali. Ehi dai, vi ascolto. Vi ascolto, sto facendo cosa qua. Già siamo qua, comunque niente, io ho finito, Natali, se ci stai ascoltando, di mettermi l'antenna, l'ho registrata bene, sollevata, sistemato bene il cavo e tutto, e stavo viaggiando con quella nuova adesso, quella che mi ha dato Claudio. Avanti Antonello. Ma voglia che stai scendo bene. Sì, perfetto, perfetto, proprio la bomba. Perché meno ci sali sul tetto meglio è, cioè una volta che la metti così scendi e buonanotte, poi quando finché dura, capito? Io la penso così, e poi quando non funziona bene sali, dai un'occhiata, se è da cambiare si cambia, se no si aggiusta, ma io penso che le antenne, dopo che fanno il loro corso, che ce li hai 6, 7, 8 anni, quello che ti durano, poi siano da cambiare. Sto uscendo adesso. Ma non sto amplificando però. Ah, ecco qua, vediamo un pochino. Eccolo qua. Sta andando bene adesso. È aumentato, come ha iniziato la modulazione era proprio limpida limpida, poi un po' è in saturazione, forse è aumentato. Rimbombante. Abbassa un po'. Troppo tanto lì. Aspetta che abbasso, allora vediamo un pochino. Allora, mettiamola così, ecco qua. Va bene così? Lasciala così. Ma è la mia modulazione o è diversa? Già, va bene, dai. No, ditemi se è la mia modulazione, perché questo è l'MC50, che però è un MC60, diciamo, là. No, già va bene, già. Va bene, vabbè, io sono in cuffia, non è che senta... Che senta molto, vediamo senza NB, vediamo con l'attenuatore, perché c'è qua l'attenuatore. Attenuatore, eccolo qua, 1, 2, 3, prova radio. Ehi vabbè, quella lì è la modulazione, non è che cambiamo. Quel tono è quello, è il tuo, la radio è ottima, Claudio. Va bene, allora lasciamo questa, cosa vuoi ti dica? Vediamo un pochino se possiamo darle appena appena più di gas, ecco qua. Lascio stare così allora, Natali, troppo alta è così. No, va bene. Va bene, dai, allora giudicato. Ok. Avanti a chi tocca. Antonio, cazzo, un segnalone, no? Che allucinante. Ma quanto ti arriva a te, Antonio? Carlo. Antonio mi arriva a fondo scala qua, è forte. È allucinante. Io sono stato lì a casa sua, è in un buco, ma c'ha un'apertura micidiale, 9 più 20 sta arrivando qua. Arrivi canteggiando il doppio room, liscio, 9 più 20. Basta che cosa, lui da luna sola mi arrivano per 40. Proprio, cioè immaginiamo di quanto l'arrivo io. Ma infatti ha detto che sta arrivando un bel forte, quindi cosa... va bene, dai che lo chiudo questo microfono, c'era un filo che era staccato, una spinetta staccata c'era, ma gli ho preso mentre il gatto ha fatto staccarsi, va bene. Allora, 1, 2, 3, prova radio, prova, 1, 2, 3, prova radio. E così perché va, guarda. Allora è buono la spugnetta, sì. Però poi bisogna tirarne i piedi. Era da parecchio che non modulava e mi ha detto che gli arrivavo Santiago 9 più 20, radio 5 ad Alghero dentro la città. Quindi l'antenna tua insomma sta andando bene, hai visto ieri con Ozieri, insomma si sente molto molto bene, sento anche segnali più bassi rispetto a prima. No, l'antenna è la tua, non è la mia, ci mancherebbe altro, l'hai comprata tu, l'hai pagata tu, io ti ho solo consigliato, non è che ti ho detto bugie, io quando compro le cose le provo. L'ho provata e ti posso garantire che la Mantova se la mette in tasca e quindi i risultati li stai ottenendo come me. Perciò sono contentissimo. Chi Carlo è il radioamatore, sì, è una vita che non lo sento, però. Va bene, ok. Adesso faccio un'altra prova qua, vediamola. Ok, sentiamo dopo. Via, Antonello, avanti. Via, qua sono. Adesso c'è una chiamata 2026. Sto telefonando i numeri di oggi. Adesso sono le 17.04, le marette. Mezzo suonato questo telefono. Beh, se ti dà le 20 e adesso sono le 17.04, fai tu. Infatti, adesso mi sono chiamato 20.26 nuovo, quindi non è detto dicembre, ieri, cioè, aspetta, sto facendo cazzate adesso, questo è di ieri allora. Ah, ecco. Fa ancora al telefono, ragazzi. Telefono tutto suato, ciò cazzo. Ma sono schiacciato come si chiama, mi stava ieri. Ecco, che mi ha fatto strano. Ieri, ecco. Oggi non mi ha chiamato nessuno. 31 era l'altro giorno, quindi io tengo, ieri era 1, oggi è 2. A posto. Da oggi 2, sta già andando, è l'anno nuovo, hai visto? Neanche iniziato, ne abbiamo già 2. Lo so, io lo so, neanche uscito. Niente, sono uscito stasera, mi alle poste, un attimo. E basta. No, io l'1 e il 2 sono libero e a casa, solo che il 31 sono andato a accompagnare mia moglie che aveva la terza dose, e visto che ero lì ho chiesto, hanno preso anche a me, mi ho fatto anche la terza dose, quindi mi faceva male un po' il braccio, ma già oggi va meglio, oggi è già quasi andato via il dolore, un paio di giorni ci dura, il mal di braccio. Sì, sono così dimentico, l'altra volta a me mi ha fatto mal di braccio e le gengive. Le gengive infiammate e mal di denti, che non è l'idea di da una parte all'altra, dipende i nervi a me, quindi devo prendere lo stile antinfiammatorio per un paio di giorni e mi passa. Mi ha fatto tutte e due volte così, ma di colpo mi... Aia, mi sa che l'ha fatto anche Natalino. Antonio, a te ti hanno punto la terza volta? Ancora no, lo devo fare. Hai fatto la seconda tu, vero? Scappa. Allora già sei a posto. Antonio, glielo faccio io il vaccino, lo tampono bene. A me? Tu vuoi fare un vaccino a me? Ehi, ti tampono il giubean tu. Oi, oi, oi. Non è, tu fatto a che dose sei? Seconda, a terza la faccio il 28, la facciamo io e Simona, tutti e due lo stesso giorno a mezzogiorno. Mi accompagna Giovanna, la sorella. E... faccio il 28 di febbraio io. Su al monte. Anche io sono andato lì. In un attimo entri da una parte e ne esci in via Grazia Deledda. Speriamo che non mi faccia male il braccio e gli ogive sono fritto. Specialmente i denti, a me via subito così. Ma poi non ha fatto niente, ma la seconda gli ho sentita già cazzo. Ho sentito davvero. Sono già temendo per la terza, figurati. E poi ci sarà anche la quarta. Noi siamo ancora dai tratti, la quarta l'hanno fatto già di Israele, capito? Si sono già tamponati loro, bene. Quattro dosi si sono fatto. Io oggi mi ho fatto prenotare mio figlio e glielo fanno il 19 di questo mese. Mia figlia invece è il 1 marzo. Figurati. È un casino questo cavolo di vaccino, è veramente un casino, sta diventando. Non passa più, no, guarda. Adesso, dopo questa variante che c'è qua, di variante, la variante del Covid ci sarà. È più contagiosa delle altre, però gli effetti dice che sono più leggeri, chissà che via via con queste varianti che ci sia sempre quella meno pesante che vada via prima o poi, se no cazzo la prendiamo pungendoci da una parte o dall'altra. Se no lo facciamo come diabete, ci prendiamo la pastiglia ogni volta, ogni 3 mesi ci prendiamo la pastiglia rosa. O se no il Viagra ti biglieremo. Mia, chi tu mi vede andare mai farmi a quell'Antonio, me la te l'immagino. C'è qualcuno sotto, chi è avanti? Ho sentito qualcuno. Forse ero io. No, qualcuno più piccolo era. Cosa volete dire? Ho sentito io Santiago 1, non so cosa abbia detto, poi è sparito. Quindi, se continuiamo così è come se ci fossimo pigliando il Viagra mio, operato, vedrai. Una pastiglia ogni 3 mesi, dico le rosse. Se trovi qualche vecchietto che metto cieco si piglia quella. Quella del Viagra a posto di quella, chi se ne frega, o quello rossa, va bene lo stesso. Già va bene, già. Importante è non prendere quella neutra. Io lo voglio fare da quello dopo che si è pigliato il Viagra, che fa effetto dopo 4 ore, no? Che stai con la mano ferma giù, però se no si vede la gobba, si vede da sotto. Allora, sparate tutti i barattoli, forse lo sto entrando in... Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sei cupo me, Gian. Non così, Gian. Il microfono, magari. Guarda cosa, già, se mi arriva un patato in bocca. Ma che c'è la fila scarica, no? Ma che microfono è? Delta. Delta. Sta parlando bene, ragazzo, ma ho girato dei microfoni. A me mi si è inceppato il mio. Vabbè, fortunatamente sta andando adesso. Va bene, va bene. Sicuramente avrà la pila scarica. Bisogna controllarlo. Gappa, gappa. Piano piano, va. Io magari con me acceso può essere la prima. Non lo so. Sicuramente sta aggiustando qualcosa Gianni al microfono, perché adesso non lo sentiamo più. Poi perché molte volte si scaricano. Sicuramente avrà la pila scarica, perché era un rumore del genere. Magari se era la batteria la starà sostituendo, già rientra, già bussa e vediamo se si sente meglio così, perché in effetti la voce era e andava via pure la voce di colpo. Sicuramente chisso. Già solo per mettere le mani Gianni, adesso lo controlla, poi già uscirà meglio. Gappa, gappa. Avanti. Fate, dai, sto facendo cosa quanto, già riprendo subito. Gappa. Oddio, già siamo qua, tutti indaffarati siamo, anch'io sto vedendo un power bank che non carica più e mi sa che è l'attacco della presa USB. E cos'è che c'è un power bank? Power bank è quello che lo metti in carica e poi quando ti serve la carica per il cellulare, se non c'è corrente elettrica, ti carica il cellulare o qualsiasi altro dispositivo. Ah, ho capito. Non carica proprio, non prende il contatto quando inserisci lo spinotto. Adesso l'ho aperto e mi sa che si è mollato proprio tutto lo spinotto. Questo va risaldato e messo nuovo. Ma che è, avanti? Prova come sta andando questo. C'è una bomba oggi. Questo qua è il Tunnel, però non è quello di prima, questo qua è il Tunnel. E vabbè, allora esco con queste buonanotte, ci do biglia e luce. Che cazzo, non capisco se la batteria adesso devo avere. No, questo va bene, questo già va bene. Ma devo avere un momento per cambiare la batteria, adesso non c'ho tempo, dai, vi saluto che sta andando a prendere aria, che mi ha chiamato adesso. Già, tranquillo, sereno e pacifico, vai, tranquillo, stai andando bene. Gappa, gappa, se non mi tratti che si gozi, mi ha dato. Andiamo bene. Uè Luca, buonasera. Andiamo, c'è. Buonasera a tutti. Buonasera anche a te. C'è qualcuno che sta chiedendo di entrare. Avanti chi chiede di entrare. E puoi ripetere il nominativo, non ho sentito bene. Ciao Giovanni, da dove stai modulando? Qua a Sassari mi stai arrivando. Santiago di 7, ma la radio non è buona, Lo avete sentito, Antonio? Pio Pio lo sento io, non riesco a capire cosa sta dicendo. Gappa, se mi senti ti saluto, di dov'è? Giovanni ha detto che si chiama da Platamona, però sta uscendo male. Gappa, pio, lo sento proprio, non riesco a capire quello che dice. Gappa, salutoni Giovanni se mi senti, Ha detto che ti sente perfettamente, Antonio, e contraccambia i saluti. Avanti, Antonè. Ma come arriva qua? Nulla mi... Fatto segnale si solleva, niente. Arriva a Santiago 7, capito, però la radio è bassa. Prova Giovanni, vediamo quanto mi arrivi a me. Giovanni, sì, Santiago 5, sì, 4-5. Ci arrivi anche qua, Claudio Sparviero, ciao, buonasera. Dai, continuate che riprendo subito io. Sì, già, abbiamo già parlato noi. Vai, Carlo, riprendi tu e sei girato. Giovanni, comunque buon anno, che noi non ci siamo sentiti. Niente, ci sentiamo io, Claudio, però Antonello e Antonio ti sentono più pio, capito? Ciao, no, benvenuto anche Luca. Ciao Luca, buonasera. Ciao Luca Ariel, ti avevo sentito. Ciao, buonanotte anche a te. È entrato, Luca, state sempre per incendi, cosa è entrato? Entra, esci, entra, esci. Quella roba ancora nella busta, amianto. Non ho capito. Quella roba è ancora nella busta. Ehi, adesso non c'è tempo di stare appresso ai serrati. Va bene, dai. Comunque, il microfono sta funzionando allora? Sta andando bene? Claudio. Eia, dimmi caro. Cioè, stai andando bene col microfono. Ehi, vabbè, questi microfoni tanto vanno in tilt, è un casino. Va bene. No, ma poi c'è Natalino, mi ha detto che la mia modulazione vuol dire già ripresa a funzionare, dai. Questo è un MC50 che però è diventato un 60. No, andava a voglia. Sì, se non andava a turbine devi trovare la vaccone, anzi. Come una pugiola in terra, perché prima era in alto, adesso è in basso. Mamma mia, come sto. Va bene, dai, riprendete, caro, riprendi e fai girare. Io, fai qualcosa, però non stare imparato. Mi aggiustando stavo anch'io, e quindi una mano al microfono e l'altra a riavvitare tutto. C'è anche avanti Luca, se ci sei viene avanti. No, Antonello. Via. Stavo cercando un casa e ho trovato quell'aggeggio che ti sei adotto me. L'avevo comprato dalla, come si chiama, l'avevo preso da... Come cosa? La cinesola, come si chiama? Ora questa un po'. Qual è affare Antonè? Quello che in pratica ti rimane il telefono quando c'è la batteria scarica accesa. Ah, il power bank, sì. Luca, l'altro giorno ero in via Marghinotti a farmi il vaccino e ho visto la tua antenna. Non c'è Luca. Allora è entrato e è uscito, ha salutato e non si sente più. Ha detto, andiamo, ce n'è andato. La Mantova, il cammino c'ha 10 anni con l'antenna. La linea d'aria da dove abita Luca, a casa mia, è proprio a un tiro di schioppo, dai. Ma io sicuramente ti vedo, a 1000 per 1000 che ti vedo. Dove sei, Anto? La zona più o meno, dai. Guarda, io la zona con suo vicoli. Ma vedo anche la chiesa, come si chiama? Io dal tetto vedo la chiesa del Duomo qua. Io ho capito. Capito? Quindi io ti vedo bene. Pietra Colonia Mariani, lì, capito? Da quella zona. Sì, già lo so dove è quella zona. Comunque, diciamo che Sassari già non ha zone d'ombra, mi sembra, perché anche con la macchina, io che giro in macchina, a volte ce l'ho attaccato in macchina, sento più o meno tutte le zone, insomma. Gaffa, tu come ti avvicina ai loghi? C'è tutto lo smitter incollato. Quando passi vicino, là sotto, già lo credo. E vabbè, in macchina è che devo sistemare meglio l'antenna, però aspetto il bel tempo, perché queste giornate non è che sono tanto indicate per fare lavori sulla capota, eccetera, e quindi è meglio aspettare una settimana di tempo buono e così fai le cose per bene, non c'è umidità. Invece in questi giorni nebbia la sera e anche freddino, non è che sia, di giorno si sta bene, però la sera già c'è freddo, maledizione. Capa, allora non mai do capire a me il freddo, tutta cantare lì, mamma mia. A lavoro, Antonio. Sa, per quello che mi stanno cominciando a venire le maledizioni. Ma vabbè, il lavoro, se all'esterno è ovvio che lo prendi il freddo, dai, però è importante coprirsi quando c'è freddo e alleggerirsi quando fa caldo, capito? E evitare di sudare, se no i dolori sono quello, me le sudate, l'umidità che ti penetra nelle ossa, maledizione. Purtroppo il lavoro che faccio io no. O è così, a pure freddo tutta la cantaratina. Già lo so, già ho capito Antu. Lo so, e purtroppo non tutti i lavori sono uguali, da te ti è toccato quello e cosa vuoi fare? E adesso ti metti a cambiare lavoro. Sì. Adesso vediamo. Ti ho mandato in Nora Mara. Non ho più voglia io. Accessa. La voglia pian piano va scemando, quando si va avanti con l'età ognuno vorrebbe andare in pensione, però con le leggi che abbiamo adesso, uiai, a 67 anni io praticamente devo fare un'altra decina d'anni di lavoro. Tonello? Scappa! No, ma io che è accrepati la china, adesso non sto cominciando a risentirne un pochino. E chi si bomboli si fa di gribane. Lo credo, è roba pesante quello. Non lo so se tu con quel lavoro possa rientrare nelle categorie quelle a rischio e andare prima in pensione. Ah, cosa ne so, sono tutti con una banda di mancanti, gioco. Aspetta che Anto mandiamo avanti a Antonello, uno di questi giorni ci incontriamo a berci due birrette. Sì, quando vuoi. Stavo cercando di un dissipato da grande. Se no per voi è stato perché non vogliamo questo adesso. Permette, no. E allora prepara la gascia. Quindi da 2,35 gli diamo quanti ne vogliono, cazzo. Ciò che deve delle effetti luci e delle effetti 7B. Questo adesso ci stiamo a cercare, riscatto qua questo dissipatore grande, aspetta un attimo. No, non ci voglio credere. Antonio, hai parlato quando stavo parlando Antonello? Ha giudito, allora non è che devo dover rete, vuoi aggascia, ha giudito. Minchia, cazzo, minchia, Antonio, cioè ti ho sentito la scema d'Antonello, una cosa pazzesca sei tu, una cosa pazzesca. Ma vai, ma hai sentito so? Sì, ti ho sentito chiaro. Studiamo. Il lavoro nobilita l'uomo e lo rende simile alla bestia. Cazzo, una potenza che cazzo mio bombolo questo. Sì, l'ho sentito anch'io, mentre Antonello parlava, lui ha detto, ehi ragascia, ridendo, e si è sentito sopra Antonello. Ma te le immagini? Ma tu te le immagini cosa sei gumbrendi, Antonio? Ma te le immagini cosa sei gumbrendi, tu? No. Faccio un cazzo di ringo, faccio una tanga bicciuria, non faccio chissà cosa, no? Cioè stai combinando, stai facendo strage, allucinante. Mi Antonello è molto vicino a me, è molto vicino a Carlo, mi. Cioè, tu, date una regolata, cazzo, buh. E cosa ne so, buio? Ah, perché ci sono 6 metri in capo. Chi comanda, ragazzi, è anche quello. Tu c'hai l'antenna diretta, cazzo, c'hai l'antenna diretta, 6 metri cavo, minchia, io ne ho 15 rispetto a 50 che ne avevo prima. Ma tu 6 metri di cavo è pazzesco, cioè tutto quello che tu stai radiando la radio sta uscendo in antenna, veramente, cioè c'hai l'antenna diretta, è come.